24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci, puntuali, le 6:33 minuti, è venerdì e dunque l'ultimo giorno della settimana per 24 mattino, anche per Miriam Lucchetti in redazione, tutta contenta per questo, e anche per l'Alpino, esultano tipo gol di Ibrahimovic rovesciata al 94esimo. Ma gioca nel Paris Saint-Germain. Anche l'Alpino Peter Bescapè saluta e è contento in regia per il venerdì. E quindi più che mai. But please relax. Più che mai, relax. È pronto il nostro bar con la nostra bella Nicole, che forse si ricandida alla regione Lombardia a offrirci il caffè? Chi lo sa? Il caffè volentieri a tutti quanti. Saluto Mario Adinolfi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, Marione, buongiorno. Eccoci qua. Forse si ricandida, hai sentito? Tremate, torna la Minetti. Preferenze stavolta, però mi sa, gli stili che la ospitano non la trovano. Vabbè, prenderà lei, chi la sa, magari prenderà tante di quelle preferenze che verrà eletta tra le prime, chi lo sa. Intanto vediamo se si candida. Saluto anche Paolo Del Debbio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Eccoci qua, tutto pronto, ovviamente è sempre lunedì su Rete 4 per Quinta Colonna. Sì, sì. Allora. Sapete ieri che anche quando sentite cosa è successo a Bersani, no? Sono momenti concitati in Italia, oggi ci sono tante polemiche ancora su quello che è successo, le manifestazioni e le violenze di piazza, con ormai è guerra di foto e immagini, addirittura Repubblica pubblica e sul proprio video, sul proprio sito internet, un video esclusivo con lanci di lacrimogeni dalle finestre del Ministero della Giustizia. Una cosa, effettivamente si vedono anche dei fotogrammi, la scia proprio dei lacrimogeni gettati su dei manifestanti dal terzo piano, cioè dal piano sopra dove sta il Ministro della Giustizia Paola Severino. Una cosa che si è confermata abbastanza allucinante. Comunque sentite anche Bersani ieri, per capire il clima che c'è in alcune piazze, quando ha iniziato a parlare a Napoli. Grazie della vostra presenza. Cioè, questo è il clima. Bersani ha salutato e il coro liberi tutti, e hanno detto dovete prendere posizione per gli studenti arrestati, eccetera. Allora, Mario Adinolfi, la situazione è di tensione sociale abbastanza, si sente, no? Nel paese. Ripeto, oggi è guerra d'immagini. Il giornale dice guardate questi bravi ragazzi con foto di poliziotti picchiati, altri rispondono, c'è il ministro Cancellieri che a Repubblica dice sono io che voglio sapere i nomi di questi poliziotti che hanno fatto alcune scene nelle quali hanno picchiato persone che erano a terra in quel momento. Come la mettiamo? Ma io tenterei di stemperare la situazione, insomma abbiamo già passato giornate, ricordo il 14 dicembre dell'anno scorso, quando ci sono state situazioni di guerriglia urbana. Voglio dire, è qualcosa che in questo momento accade in tutta Europa e in tutto il mondo, in Italia anche, non è che siamo lontani dalla crisi sociale e quindi inevitabilmente ne paghiamo anche le conseguenze in questi termini. Per fortuna continuiamo ad avere, diciamo così, manifestazioni che per la stragrande maggioranza dei partecipanti sono assolutamente civili, esistono delle frazioni che evidentemente creano le condizioni di uno scontro, sta alle forze dell'ordine ovviamente saperlo gestire. In alcuni momenti è inevitabile l'utilizzo di una carica d'alleggerimento, di un esercizio della forza che quando a dei poliziotti viene ordinato di proteggere degli obiettivi sensibili, se le manifestazioni avanzano non c'è niente da fare. Sì, ma io lo dico, io infatti lo dico così, ma per carità, non è che si può giustificare tutto, però purtroppo in quelle situazioni, quando prevale, immagino anche l'adrenalina, eccetera, e non so se siete d'accordo su questo, vorrei anche Paolo Del Debbio, non è che uno può chiedere la carta d'identità. in quel momento lì, quando infrazioni. Lo so, purtroppo succedono queste cose. Io magari manifestazioni non ne ho viste, però frequentavo prima, quando ero più giovane, lo stadio, non è mai successo niente, andavo a vedere la partita di calcio, ma mi rendevo conto che in un attimo potevo finire in situazioni in cui magari a 100 metri la gente scappava e venivi preso in mezzo, no, Paolo Del Debbio? Oppure bisogna andare a scandagliare ogni singolo fotogramma, a dire guardate qui c'è uno trascinato, guardate qui è successo questo. No, questo no, però è sempre vero che, insomma, siccome ci sono le telecamere, no? Quando andavo allo stadio io, diciamo, da ragazzo ce n'erano di meno le telecamere. Allora, siccome ci sono le telecamere, siccome si può appurare come è andata la cosa, anche perché non sarà l'ultima di manifestazioni, se non altro serve per il futuro, no? per istruire le persone che devono tenere l'ordine a tenerlo nel modo giusto . E per sapere agli altri che, diciamo, viceversa hanno provocato sto po' di casino, lasciar perdere. Ma mi sa che quelli se ne quelli se ne fregano un po', cioè, nel senso, uno che saranno anche 20, ma se mettono i caschi e lanciano le pietre, non è che se ne fregano. Fino a un certo punto, perché quando poi le persone vedono che man mano che le cose vanno avanti, sono identificate, sono punite, eccetera, insomma, se ne fregano fino a un certo punto. Il mio timore è che poi vengono sempre identificati quelli che, no, in questo, Mario, sono più scaltri, intervengono, colpiscono quei magari 25, 30, ieri Luca Terese li ha definiti 25 stronzi, insomma, che si sono messi dentro e hanno lanciato poi magari sassi alla polizia, creano i casini e poi chissà com'è riescono sempre un po' a sfangarla, no? Esistono dei professionisti della guerriglia urbana, insomma, è noto. Devo dire che nel caso degli incidenti del 14 dicembre a San Giovanni ci furono poi delle pene durissime, pesantissime per quelli che furono presi per il lancio dell'estintore. Erpellicce, sì. Hanno avuto anche, bravo, 5 anni di carcere, 4 anni e mezzo di carcere. Del Debbio ti stava dicendo una cosa. No, mi scuso, anche a Milano, non so se si ricorda le signore Pelliccia davanti a San Vittore che difendevano i bambini che erano al freddo in San Vittore. Sì. Quelli lì mi dicono che poi dopo sono stati a casina loro, non hanno continuato a fare quel po' di bordello che avevano fatto in quell'occasione. Insomma, allora, prenderli magari serve. No, però attenzione, in questo c'è da dire anche questo: l'intervista che fa Repubblica Anna Maria Cancellieri, caro Adinolfi, dice di Beppe Grillo delle cose che per un tecnico, insomma. La lettera al soldato blu di Grillo che ha detto mettetevi insieme poliziotti è irresponsabile, è uno sciacallaggio politico, il paese non ha bisogno di altri Masanielli, ne ha avuti abbastanza, e peraltro il Masaniello originale non aveva nemmeno questo tono torvo e truce. Anna Maria Cancellieri, che ce l'ha con Kim Jong-il? Mi tocca Kim Jong-il? Non sia mai. Io eviterei di dare altra pubblicità a Beppe Grillo, insomma, che non ne ha bisogno. E tutto sommato, allora, Grillo, dobbiamo capire, è un voto che raccoglie istanze di protesta, tra l'altro molte anche assolutamente legittime, per cui tutti quelli che si sentono contro, come dire, tendono a votare ormai per il 5 Stelle. Io consiglio vivamente anche ai tecnici di evitare di dare motivazioni ulteriori per assommare voti al 5 Stelle. Il 5 Stelle va battuto politicamente, non va demonizzato, perché demonizzare il 5 Stelle è una stupidaggine. Grillo ovviamente fa il suo mestiere, cerca di avere più consensi possibile, ha delle uscite che ovviamente possono essere contestate, sono contestabili, alcune sono contestabilissime, però non è uno sciocco, cioè intervenire in questo con una tempistica e una capacità comunicativa, diciamo, di livello assoluto, per cui oggi noi discuteremo tutta la giornata dell'intervista della Cancellieri, l'attacco a Grillo, lui ovviamente di questo può solo beneficiare. Beh, certo, ci gode, è quello che ottiene la Cancellieri. Non ha tolto un voto a Grillo, forse ne ha aggiunti, quindi io sarei molto attento a usare queste argomentazioni e a demonizzare il 5 Stelle, che forse può essere battuto con altre cose. Sentiamo Roberto Saviano che cosa dice. Mi piacerebbe poter parlare a quei carabinieri, a quei poliziotti, a quei finanzieri che fanno ordine pubblico. In questi anni ho imparato a condividere i loro spazi, il loro tempo nelle loro caserme, e mi piacerebbe poterli invitare a rifiutare ordini violenti, per esempio di poter caricare manifestanti inermi, e allo stesso tempo di potersi impegnare. Ecco, rifiutare, Paolo Del Debbio dice: rifiutate gli ordini violenti di caricare, cioè dice alle forze dell'ordine, Roberto Saviano. State lì e fatevi massacrare di botte. No, lui dice contro le persone inermi. No, ma infatti. No, ma non è quel che, guardi, mi scusi, non è quel che dice Saviano, è il tono oracolare che colpisce, capito? Perché uno dice, guarda, secondo me hanno sbagliato, dovrebbero moderare, magari no, vorrei poter parlare a quei ragazzi. Se uno deve poter parlare, ci parli, no? C'ha 70.000 possibilità sulla stampa televisione. E dice, guarda, finanzieri, tenete le mani a posto, no? Cioè, non state a farli... che poi l'altro ha anche torto. Questo tono qui, insomma, francamente a me dire che dice Saviano poi a quest'ora di mattina subito, insomma, no, lei è veramente un po' cattivello. No, le ho rovinato la giornata con Roberto Saviano. Sì, mi sono svegliato da poco, lasci stare, no? Sì. Vabbè, no, ma poi io dico, ripeto, sarò provocatorio, ma non lo dico come provocazione, ma nel momento in cui c'è l'adrenalina e un poliziotto interviene, gli è arrivato magari una sassata, e tira una manganellata... Ripetire una manganellata, magari prende uno che non c'entra, è vero, lo so, è brutto, certo, ma in quel momento lì che deve fare? No. E dice, aspetta un attimo, ora, che mi ha detto Saviano? Ecco, dice in quel momento. Mi ha detto, vorrei fare, perché vorrebbe parlare, mi calmo un attimo. Esatto, ci vorrebbe l'iPod con le parole di Saviano, mentre sei in piazza, allora uno si calma. Difondete la schermi interi sulle piazze. Buongiorno Alessandro. Si parla tanto delle difficoltà dei partiti, delle crisi dei partiti, dell'utilità dei partiti, ma se sono partiti non ci sono più. Volevo sapere se c'è un conto corrente, un bollettino postale per confluire un po' di soldi per quanto riguarda il terremoto in Belice, perché vedo ne hanno ancora bisogno e sono mortificato. Volevo fare i complimenti alla procura di Trani dopo il rinvio a giudizio delle società di rating. Finalmente qualche procura che tenta di mettere in galera qualche ladro internazionale e anche nazionale. È semplicemente vergognoso in questa situazione in cui è tutta l'Italia che ancora proponiamo le elezioni, che sono miliardi che vanno via dalle tasche degli italiani. È semplicemente vergognoso. Io eliminerei tutte quelle interviste che ci fanno soltanto arrabbiare. C'è gente che sta andando a lavorare mentre vi ascolta e sentir parlare gente che sperpera i milioni fa male. Maruccio, De Gregorio, Fiorito, Polverini, Formigoni, sono un bandito, perdonatemi, ieri non ho fatto uno scontrino di 1,50 euro. Ciao a tutti, io sono un carabiniere in congedo e vorrei spezzare una lancia a favore delle forze dell'ordine, ed è ora di finirla di giustificare sempre i facinorosi e i delinquenti. Un appello alle forze armate, in special modo ai carabinieri, datevi da fare, voi che siete stati sempre vicino al popolo, non ci abbandonate! Quell'ultima telefonata, siamo con Mario Di Olfi e Paolo Del Debbio, l'ultima gracchiava anche un po', sembrava un appello, non so, Mario, sembrava Radio un appello Londra, Radio Londra. Londra, sembrava un appello alle forze armate. Vagamente colpista, diciamo. Sì, effettivamente. Vi devo fare questo quiz. Un giorno mi dovrete chiedere scusa. Chi l'ha detto? A. Nelson Mandela. B. Aung San Suu Kyi. C. Il comandante Schettino in un'intervista esclusiva al giornale. Ecco, indovinate, secondo voi, non vi ho dato aiutini, eh? Non... Mandela, guarda. Mandela. Del Debbio, Adinolfi dice Mandela, l'ha detto. Del Debbio cosa dice? Sì, però magari Schettino l'ha copiato. Forse sì, forse. Allora, oggi al giornale il comandante Francesco Schettino ha anche detto: riascoltatevi la telefonata col comandante De Falco, quello che gli ha detto salga a bordo, no? Aveva De Falco. Ha detto è una vittima di questa situazione De Falco. Io da naufrago, riascoltatevela, io tentavo di tranquillizzarlo da naufrago, ma lui è rimasto vittima di questa situazione che non vedeva e io cercavo di calmarlo. Vabbè. Ma per carità, ci sarà il processo. Questa ci mancava. Vabbè, comunque, devo invece dire anche questa. Io è da giorni che mi scervellavo su questi vitalizi regionali. Qua abbiamo un deputato, Mario Adinolfi. Mario Adinolfi, ci avete fregato. Questa è la verità. Oggi Sergio Rizzo e Il Fatto Quotidiano spiegano che la beffa dei vitalizi regionali. Hanno fatto un decreto, il governo Monti, per bloccare i vitalizi ai Fiorito, vari, eccetera. Dicendo bisogna avere almeno 10 anni, bisogna di legislatura regionale, bisogna avere 60 anni, eccetera. È stato fatto tutto, spiegato da Sergio Rizzo, è stata aggiunta una postilla a questo decreto in fase di conversione alla Camera, per cui è saltato tutto, cioè non vale questo decreto per le regioni che hanno già formalmente abolito i vitalizi per il futuro, tra cui Lazio e tutte le altre regioni. È una fregatura. No, la fregatura l'ho presa io che non ho nessun vitalizio. Sì, ma è una fregatura, cioè i vitalizi vengono mantenuti così ai consiglieri regionali, non varranno per il futuro, ma i Fiorito vari li prenderanno. È una cosa incredibile, ecco. Allora, tutte le norme che sono sempre state fatte su questo terreno purtroppo non riescono a essere messe, diciamo così, in opera per il passato. Cioè, si dice sempre che non si possono fare delle norme che abbiano valenza retroattiva. Il dato è stato evidentemente valutato così. Ripeto, parli con l'unico deputato che non prenderà vitalizio parlamentare perché sono arrivato da poco e anche lì hanno fatto la norma, per cui hanno detto il vitalizio l'abbiamo cancellato, ma l'hanno cancellato per quelli che venivano dopo, cioè solo per me in questo caso. E nel caso delle norme retroattive, come tutte le norme retroattive, si sono come al solito protetti. Sì. Non mi meraviglio, ecco, se devo dire sono scandalizzato quanto tutti i cittadini italiani, ma non meravigliato. No, io non mi meraviglio anch'io perché siamo dato che il cappone usi per il Natale, come si sa, insomma, è piuttosto raro. Hanno votato per quelli successivi, io mi prendo tutto l'insulto possibile a nome dei colleghi, sapendo che non avendo vitalizio regionale, non essendo stato consigliere regionale, sei uno spentato. Il nome loro, ma a proposito, invece benedì. Hai capito dov'è Savignano sul Rubicone? Che venerdì scorso... Non ti dico la polemica che c'è stata pure sui giornali sul fatto che Adinolfi da Milan aveva detto che non sapeva dove era Savignano. Sì, vabbè, anche tu, ma studi la geografia, ma tutti sappiamo dov'è Savignano sul Rubicone. Storia, perché poi lì è passato Cesare per... L'hai varcato poi il Rubicone? Mi sono pagato tutte le penali possibili. Perché del debito la scorsa settimana Adinolfi era con noi, doveva andare a Savignano sul Rubicone, ha detto ma manco so dov'è, devo andare a fare un'iniziativa politica, forse neanche il navigatore lo prende. Ma tutte le iniziative in tutta Italia sono stato poi anche ovviamente è stato accolto è stato accolto e insultato, ma come lei non sa dov'è Savignano sul Rubicone? Povera Adinolfi. Comunque Del Debbio, questo è materiale per lunedì, quinta colonna. Ci hanno fottuto sui vitalizi regionali. Sì. Oggi Sergio Rizzo spiega che è saltata la norma antifiorito. Pagina 15 del Corriere della Sera, ma anche sul Fatto Quotidiano, pagina 2. Hanno fatto tutto un decreto, l'hanno convertito in maniera con delle postille, per cui è un casino e prendono i vitalizi come prima. Ecco, e poi. Ma dice Adinolfi perché di Adinolfi mi fida. Generalmente dice la verità, ma è vero che non si poteva fare, dice Adinolfi, come mai? Perché è retroattivo? Ma no, perché in genere queste cose retroattive vengono sempre trovati degli inghippi per scamparla, cioè varrà per il futuro, ma per applicarla per chi era già in carica come Fiorito si trovano sempre degli escamotage, e infatti Sergio Rizzo lo spiega benissimo, l'escamotage è una postilla che è stata messa. Lunedì gli diamo addosso, va bene, grazie, vi devo salutare con Mario Adinolfi, che è anche deputato del Partito Democratico, senza vitalizio futuro però, lui, e Paolo Del Debbio, vi ricordo lunedì su Rete4, quinta colonna, è con noi ovviamente. E... guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, fa

sul giornale a pagina 17. Siamo con Giovanni Favia, che è il consigliere regionale dell'Emilia Romagna per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno e ben ritrovato, Favia. Buongiorno. Come va? Perché insomma, c'è stata questa riunione in cui è stata confermata Federica Salsi, perché voi avete questa metodologia per cui vi presentate sempre ai vostri elettori ogni tot e venite confermati. Però Beppe Grillo ha tuonato contro l'applausometro, dice, in pratica ha detto non si dà così la fiducia. Beh, sicuramente non si dà con l'applausometro, sono d'accordo. Quella dei consiglieri comunali era un po' diversa da quella che facciamo noi come regionali, perché nelle nostre assemblee si vota e c'è un sistema di tracciabilità del voto, quindi non è i cittadini non ci valutano con un applauso, ma ci valutano con una scheda e le assemblee sono aperte a tutti. E lei ha dovuto sottoporsi, l'ha passata questo voto? Per il momento sì, ovviamente essendo regionali noi dobbiamo fare un appuntamento per ogni provincia, perché se facessimo un solo appuntamento a Bologna chiaramente... Ah certo, quindi l'ha passato in che provincia l'ha passato per ora? Piacenza e Ferrara. Piacenza e Ferrara, in attesa di conferme delle altre province. Ecco, ma invece per i consiglieri comunali cosa è successo? Cioè, non sarà l'applausometro, ma Beppe Grillo insomma ha un po' ridimensionato questa fiducia che i giornali dicono è stata data alla Salsi. Ma guarda, lui ha ribadito che non è obbligatorio. Ha esposto le sue idee in merito a come dovrebbe avvenire una remissione del mandato, e tutto è perfettibile, quindi... Noi abbiamo aperto una strada, è una cosa che in Italia non era mai stata fatta, partì da una mia iniziativa 3 anni fa, tra parentesi, e poi si è diffusa un po' a tappeto in tutti i gruppi 5 Stelle d'Italia. Quindi sicuramente si può migliorare, sicuramente ci sono delle criticità, però è un grande momento di democrazia partecipata e non penso che Grillo abbia delegittimato, abbia sconfessato queste iniziative. No, ce l'aveva soprattutto con noi giornalisti, come al solito. La fiducia è una cosa formale, diversa da questi incontri, cari pennivendoli, ha detto così, no? È indubbio che un applauso di quel genere ha un valore che non è sicuramente un'espressione di voto formale, ma un valore simbolico, dimostra affetto verso la consigliera da parte comunque di una base che si rivede nel Movimento 5 Stelle, perché nel momento in cui sui giornali di Bologna si parla per giorni e giorni di questo momento, un momento chiave di confronto nel mondo del Movimento, i cittadini possono partecipare alla riunione, è ovvio che si fa sentire chi partecipa. Certo. Cioè, no? C'è stato anche un insulto, un epiteto in un fuori onda, l'ennesimo fuori onda. Dovete stare attenti a questi fuori onda, Fabia. Ma guardi, Milan, bisogna anche chiamarli con il loro nome, non sono fuori onda. Fuori onda è quando tu rimani davanti a una videocamera accesa in attesa di un collegamento e ti registrano quello che dici. E lei come le definisce questi invece? Nemmeno il mio era un fuori onda se non nei primi 10 secondi. Sono registrazioni fraudolente, non a norma di legge, di discussioni private fatte sapendo di essere in un contesto privato con un registro privato. Mm-hmm. E trovo umiliante questo modo di fare. Un conto, sa, se io carpisco informazioni di interesse pubblico nel senso tangenti, malaffare, cose del genere, ma qui parla veramente di sfoghi privati. Cioè una che dà della P, diciamo così, della puttana, ecco, questo fuori onda a Federica Salsi è uno sfogo che deve rimanere, non deve avere questa rilevanza, lei dice. Guardi, io le chiedo una cosa. 3 persone, a margine di una riunione che comunque era tesa, che dicono una cosa di quel genere lì, che è una scemenza, sono sicuramente 3 deficienti, se io ovviamente non so se ci sono stati dei tagli in colla, se è come sembra dalla trasmissione sono 3 deficienti, ma la responsabilità è personale. Sì, sì, non chiaro. Si può trarre un dato politico come è stato fatto tra ieri sera e stamattina, insomma. Senta, ma tecnicamente, vi spieghi, secondo le regole del Movimento 5 Stelle potrebbe ancora arrivare questo PS, cioè quel puoi sparire, a Federica Salsi? Guardi, non lo so, io penso di no, la mia opinione è che no, non arrivi, e Grillo si occupa dell'attribuzione, inibizione del logo, tecnicamente potrebbe quindi farlo, ma io penso che non sia che non ci siano proprio i presupposti. E ce n'era un'altra invece, Raffaella Pirini, che tra l'altro è stata intervistata proprio da me una ventina di giorni fa, e proprio a seguito dell'intervista, di quell'intervista, lo rischia un po' di più forse il PS, mi risulta, così scriveva anche l'Unità, visto che è una consigliera comunque anche della sua regione comunale, lei rischia qualcosa, la Pirini? Ma anche qui io ho letto dai giornali quello che lei sta dicendo, che c'è questo rischio, ma elementi non ne ho, non sul blog non è arrivato nessun PS, e quindi insomma non saprei cosa dire. Ma un movimento che insomma siete tutti un po' in attesa di questo, o comunque con questo rischio, sembra un pochino una setta, mi perdoni il paragone, l'ha detto la stessa Salsi, rischiamo di finire come una setta, cioè dove uno dall'alto vi guarda e dice occhio che arriva il PS e puoi sparire. Lei è un giornalista molto preciso e ha ben sottolineato che la Salsi ha detto, ha espresso un timore, una preoccupazione, un rischio. Non ha detto che oggi siamo in fretta, perché no, non infatti, è così. Infatti, però insomma, sì. Queste modalità sono un po' inquietanti, a meno dal mio punto di vista. Sono modalità che dovranno essere superate, perché ci espongono a delle criticità oggettive. Sicuramente non va bene questo tipo di rapporto con dei PS, però è anche vero che sono delle modalità di un movimento che è passato in pochi anni dallo 0 al 20-30%, che, come dire, ha esposto tutti noi e tutto quello che abbiamo costruito in questi anni lentamente, in maniera certosina, a delle tensioni, a delle pressioni a cui non eravamo abituati. Questo quindi sì. Io penso che, io almeno ho fiducia, sono un movimento perché ci credo ancora, e abbiamo cambiato tante cose velocemente in questi anni, dovremmo aggiustare ciò che non va. Ci sono dei problemi oggettivi, non bisogna mettere la testa sotto il tappeto e la testa sotto la sabbia o nascondere la polvere sotto il tappeto, i problemi vanno affrontati proprio perché la sfida è davanti a noi. Ma anche tutto questo casino, perché Federica Salsi è andata a una trasmissione televisiva, cioè non è esagerato, per dire, lei se arriva l'invito a Ballarò o a Porta un talk show, uno o l'altro, insomma, lei ci andrebbe oppure no? Guardi, sia io che Federica, soprattutto io, perché sono stato più conosciuto, sono stato eletto in un capoluogo di regione per la prima volta, poi un grande successo alle elezioni regionali, ho ricevuto decine di inviti a talk show in questi anni, soprattutto nell'ultimo. Noi il 90% lo rifiutiamo, ci tengo a precisarlo. Federica era chiamata tutte le settimane, evidentemente lei con la sua testa ha deciso in alcune trasmissioni due o tre volte di partecipare. Testa per me che è una, testa è una che libera scelta, sì, no, certo. Condivido il fatto che i talk show, sono d'accordo con Grillo, siano dei luoghi dove non sempre si fa informazione, anzi spesso si confonde, spesso ci sono piccole trappole per metterti in cattiva luce, se non sei uno col pelo sullo stomaco, anche se sei una persona onesta, brava, con delle buone idee, fai una figura un po' dello scemetto. In questo Grillo ha perfettamente ragione. Testa che Federica Salsi dice rischia di finire sotto un burka tra un po', no? L'ha detta questa frase, cioè rischiamo di finire tra un po', devo mettere il burka qua. Sì, ma guardi che la cosa più preoccupante è la talebanizzazione. Uno può condividere o meno i toni di Grillo, che fanno sempre molto discutere lì, ognuno ha le sue opinioni, ma la talebanizzazione non è stato un problema tanto da imputare a Grillo, ma a chi in rete ha veramente scatenato una caccia alle streghe. È questo che non va bene. Sono arrivate tante persone nuove nel movimento che non l'hanno visto nascere, non sanno quali sono i principi fondanti. Saltano sul carro del vincitore. Lo fanno con una violenza. Non, forse scambiano Grillo per Panciovilla o per Zapata, non è così. Noi non abbiamo leader a cui ispirarci. Leader siamo noi cittadini, che ci poniamo un obiettivo, un sogno e lavoriamo per raggiungerlo. Ragioniamo con la nostra testa e soprattutto ci ispiriamo a valori civici e civili, no, certo, Grillo come dite voi è il megafono del movimento. Senta, un'ultima domanda, Grillo, a proposito, visto che ci avevamo sentito un mesetto fa, l'ha sentito? L'ultima volta ci aveva detto di no, l'ha più sentito? L'ho sentito via messaggio certamente, ma sono comunicazioni diciamo, personali. Sì, certo, però almeno vi siete sentiti, perché l'ultima volta diceva no, non mi parlava, non mi... almeno vi siete... c'è stato un filo che si è... C'è stata occasione di sentirci il messaggio. Un'occasione di sentirci. Sono stati almeno messaggi positivi di riappacifica, di un po' di riavvicinamento, oppure sempre duri? Ma sono stati messaggi sicuramente di distensione. Di distensione, va bene. Ah, in bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi. A Giovanni, grazie, grazie Giovanni a Favia, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella regione Emilia-Romagna. Ci fermiamo e poi torniamo a parlare degli scontri di piazza di due giorni fa, soprattutto a Roma. Ora è guerra di video e foto sui giornali. Il ministro Cancellieri, intervistato oggi da Repubblica, dice: punirò i poliziotti che hanno sbagliato, ma nel complesso le forze dell'ordine si sono comportate bene. No, devo dirlo, sembra fatta apposta, ma così non è, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Poi mi date, c'è chi mi scrive se è un servo, perché non riesco a fare le domande a Giovanni Favia, vorrei capire servo di chi. No, ma devo dire, sembra fatta apposta, avete sentito la pubblicità di Pubblico? Ne saluto il direttore Luca Telese, ma... Buongiorno. Ma è una coincidenza, sì, ma sei... Ho chiesto, ho detto, ho capito, ma sei comparso... Ma dimmelo, una volta che ti invito compare la pubblicità di Pubblico. Vabbè, no. Siamo adesso, a parte gli scherzi, siamo con Luca Telese, direttore di Pubblico per l'appunto, e saluto anche Claudio Giardullo, che è segretario generale della SILP, il sindacato italiano lavoratori di polizia, SILP CGL. Buongiorno Giardullo. Buongiorno a voi. Ritorniamo. Buongiorno. Più seri per parlare di quello che è successo due giorni fa a Roma. Allora, gli elementi che vi devo dare è questo, se non avete letto i giornali. Oggi Anna Maria Cancelliere a Repubblica dice: ho visto, mi fate vedere voi per la prima volta le immagini di alcuni poliziotti che colpiscono gente inerme a terra, ragazzi che appaiono inermi. Questi poliziotti devono pagare. Voglio sapere io come si chiamano e li punirò. Però Anna Maria Cancellieri anche ha ribadito la polizia si è comportata nella sua grande totalità bene. La piazza non deve strumentalizzare, deve essere intelligente nell'agire. Però certo, Anna Maria Cancellieri dice: quelli che hanno sbagliato li voglio individuare. Luca Telese ieri definiva 25 stronzi che si sono intrufolati in cortei pacifici e hanno creato il casino. Ecco però, Luca Telese, oggi voi intervistate su Pubblico Daniele Vicari, l'autore del film Diaz sulle violenze del G8. Allora, come la mettiamo? Adesso è diventata una guerra di foto, video, contro video sui giornali. Che è successo a Roma due giorni fa? Guarda, è un argomento complesso e sono contento che illustri questa differenza. Noi eravamo in mezzo a questi cortei, li abbiamo seguiti. Molti di questi cortei erano cortei di ragazzini del liceo, delle superiori, giovanissimi, persone senza nessuna voglia di fare violenza e nulla. Che cosa è successo? Che purtroppo, come spesso accade in questi ultimi anni, una pattuglia molto, come dire, attrezzata di un gruppo, diciamo così, antagonista, che ha caschi, bulloni, tascapani, con il volto travisato, si infila in mezzo a questi cortei, fa partire una sassaiola e a quel punto la polizia interviene e carica. Cosa succede un secondo dopo? Che questi qui, che sono dei professionisti, scompaiono, arretrano, fanno manovre di diversione e vengono presi gli altri. Molti di quei ragazzi che sono poco più che, voglio dire, inconsapevoli anche di che cosa è successo, si trovano a subire delle cariche. Poi ci sono dei casi estremi in cui qualcuno, non voglio assolutamente criminalizzare la polizia, perde la testa, si arrabbia. Ecco, però la domanda lì, Luca, io è questa. Ho voluto fare un atto di accusa, scusa, solo questo, sì, molto severo, i 25 stronzi, perché dico che la folla non è innocente. Cioè, dentro questi cortei bisogna che anche il più ingenuo, più candido e più santo dei ragazzini capisca che se consente a qualcuno con caschi, volto travisato, tascapane e bastoni o pietre di entrare in un corteo, poi deve sapere che fa il suo gioco e che si espone insieme alla soluzione. Però la domanda, sì, no, ma questa è la domanda che ti faccio, Luca, è questa: nel momento in cui c'è una carica, appunto, provocata da Sassaiola, eccetera, non voglio giustificare assolutamente il fatto che un poliziotto dia una manganellata a una persona che non c'entra, ma purtroppo quando la situazione degenera e c'è una carica, non è che uno può chiedere la carta d'identità se fa una carica nel momento in cui tira fuori il manganello, non per farlo vedere ma per usarlo, e quindi bisogna andare a beccare il fotogramma e dire: ecco qui, ha dato una manganellata a uno che non c'entrava. Ma come fai a sapere bene chi c'entra quando volano sassi, pietre e cocci di bottiglia? Guarda, questa è la più grande esperienza dei poliziotti che stanno sul campo, no? Io mi ricordo che il famoso 15 ottobre, la giornata dei 10 milioni di euro di danni a Roma, era abbastanza facile distinguere i professionisti della violenza da quelli che non c'entravano nulla. Certo, mi rendo conto, e per questo lo dico, che è una responsabilità enorme quella di far entrare una persona in assetto di guerra dentro il tuo corteo, quindi i manifestanti devono capire che bisogna cancellare la zona grigia, cioè a quelli in assetto di guerriglia non bisogna neanche farli passare. Se li fai passare hai una responsabilità che non esime i poliziotti, che però è tua. Allora, Claudio Giardullo, tra l'altro, ha fatto molto scalpore in Spagna, quindi in Spagna ha preso una manganellata e viene, ci sono le foto con il volto coperto di sangue, un ragazzino tredicenne. Cioè purtroppo quando poi c'è la carica ci vanno di mezzo anche delle persone che non c'entrano nulla. Però Giardullo, le devo fare due domande secche. La prima è: che ne pensa del ministro Cancellieri che dice: sono io a voler identificare quel poliziotto che in quell'immagine si vede che sembra colpire un ragazzo che è a terra e quindi ormai inerte? Fa bene il ministro Cancellieri? Assolutamente sì, mi sembra una cosa doverosa, non solo giusta. Chi ha sbagliato deve pagare. Noi non pensiamo che si debba coprire in maniera indiscriminata e aprioristica qualunque azione di qualunque operatore delle forze di polizia, assolutamente no. Noi pensiamo che la Costituzione debba essere applicata tutta anche in ordine pubblico. Però c'è una domanda successiva alla quale il ministro Cancellieri risponde in maniera chiara, e cioè la domanda è: ma allora perché non mettiamo gli identificativi, come succede all'estero, dei poliziotti che intervengono? E il ministro risponde: guardi, non ho ancora capito se ha ragione chi vuole questo o se invece ha ragione le forze di polizia che temono che questa identificazione possa portare poi a ritorsioni a loro e alle loro famiglie. E ho capito, però intervenire in anonimato non aiuta a fare chiarezza, Giardullo. Ma guardi, intanto nella storia dell'ordine pubblico del nostro paese si è dimostrato che per ora non c'è questa indicazione, quindi, come dice lei, insomma, gli interventi sono sempre stati in anonimo, ma non è così, perché stiamo parlando dei corpi dello Stato, stiamo parlando della polizia, quindi di anonimo volendo non c'è niente. Però volendo, Giardullo, poi non è facile individuare chi ha tirato quella bastonata se non c'è un identificativo, c'è uno spirito di corpo, no, che ormai copre. Si fa ordine pubblico, ormai si fa ordine pubblico sotto i video, le telecamere, i telefonini di migliaia di persone, è una delle cose che si sta apprendendo, si dovrebbe apprendere ancora di più tra la formazione, voglio dire, degli operatori di polizia. Ci deve essere anche il fatto che se vogliamo essere una casa di vetro anche nei servizi più delicati dobbiamo imparare a evidentemente operare in un certo modo. Però qui c'è un problema a monte. L'ordine pubblico è sicuramente la risultante di alcune dei fattori tecnici ma anche politici. Allora, a volte purtroppo sul piano politico si ha l'idea che bisogna difendere soltanto i palazzi istituzionali, per carità, sì. Cosa fondamentale, ci mancherebbe che in un paese democratico i palazzi delle istituzioni fondamentali potessero essere messi a rischio, però non può essere l'unica cosa. Allora, se non c'è un'indicazione, l'esperienza mi dice, Genova compresa, per capirci, perché poi è stata evocata diverse volte il G8, che se non è esplicita l'indicazione politica che l'obiettivo strategico che si vuole raggiungere è, oltre alla difesa dei palazzi istituzionali, anche il fatto che i diritti fondamentali delle persone anche nei momenti più difficili, e poi si faranno ovviamente valutazioni per devono essere rispettate. Comunque lei dice identificare è chiaro, identificare le persone che eventualmente hanno sbagliato. Tra poco vi devo chiedere anche una cosa di un video su Repubblica.it, che è un video che appare un po' inquietante. Però Luca Telese, chiedo questo: oggi invece aprite con pubblico Disperazione Italia. Ieri, quando Bersani, un leader politico, ha iniziato a parlare, l'hanno contestato subito. Cosa ci ha tende nei prossimi mesi in Italia? Perché io temo che abbiamo solo visto l'antipasto di quello che potrebbe succedere, Luca. Sì, i professionisti della violenza cercano di fare i detonatori, no? Entrano dentro miscele umane, antropologiche, esasperate, vedono che cosa succede e sperano di essere seguiti. Allora la tua domanda è: sì, c'è già una miscela esplosiva nel paese, e guarda che non è più la solita, come dire, base insurrezionalista o antagonista di qualche studente. Il campanello di allarme che dovrebbe farci preoccupare è quello che è successo nel Sulcis, dove l'elicottero del governo, dove viaggiavano i ministri che erano andati lì a firmare il patto di sviluppo sociale e territoriale da 300 milioni di euro, sono stati inseguiti fino al campo di atterraggio da una folla di operai inferociti, minatori, sì, sì. Gente che non ne poteva più della situazione, sì, in cui si trova. Vincino l'ha paragonata la fuga da Saigon, esagerando, vabbè, per carità, cioè non è che... Beh, la fuga da Saigon è una pagina storica, no? La fine della guerra di Vietnam, però sicuramente io ho visto questa rabbia, l'ho vista con i miei occhi, l'ho vista il 15 ottobre in un pezzo di Mondo Giovanile, quasi nichilista, l'ho vista in tanti cortei per il lavoro, per esempio l'ho vista a Cagliari quando quest'estate ci sono stati degli operai dell'alluminio e si sono buttati in mezzo ai traghetti per fermarli, sì, e protestare. Cioè, è gente che dice: sono così incazzato, scusate il termine, che posso fare qualunque cosa, il che non vuol dire che tu giustifichi quel qualunque cosa. No, e non vuol dire, neanche che lo faranno. Non è neanche detto che lo faranno, quello di dire sono arrabbiato e quindi voglio fare la rivoluzione. Quanti messaggi ci arrivano così, per carità, però cova un disagio sociale effettivamente, e tra poco si va a votare, che è evidente. Vorrei sentire Davide da Verbania, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Davide, eccoci. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, no, io chiamavo per una riflessione rispetto alle violenze, cioè il fatto, una domanda che mi viene, sì, ma alla fine a chi giova, nel senso che da una parte c'è appunto questa violenza indiscriminata di questi gruppuscoli di folli che lo fanno. Ci sono dei, ma saranno pochi, 10, 20, 30, ma professionisti dell'antagonismo. A livello anche personale, probabilmente di problemi anche emotivi, relazionali, il fatto di sentirsi importanti, però... Cioè, lei vuole fare una lettura sociologica a chi giova? No, per carità, a loro giova sicuramente, però vivono parte, per quello. Il ragionamento che mi viene anche da fare, dico, dall'altra parte, però il fatto che comunque ci sia così un malessere, un movimento di protesta pacifico, potrebbe giovare anche a forze più oscure, senza andare a cercare complottismi particolari, però a forze più oscure che dicono che così i ragazzi si spaventano, non vanno più a manifestare, e anche perché mi dico, voglio dire, la polizia è organizzata, c'è gente seria, preparata, voglio dire, cioè, sai, non dico che sai chi sono personalmente, perché se poi si mascherano altri, però io mi ricordo anche, per esempio, ho delle scene di Genova in cui vedevi la polizia che interveniva e pestava gente che era lì che camminava, quando ti vedevi le sfilate che sembravano quasi in posa, no? Genova gente che andava in giro a Genova evidentemente, no? È un capitolo, Davide, che no, in questo caso non c'entra. Genova l'ho preso come esempio. No, chiaro, per dire... sì, però ho preso un esempio dove forse tutto è andato storto, e quindi se ci parametriamo a quell'esempio dove ci sono anche sentenze della magistratura che dicono che sono stati compiuti degli abusi intollerabili, non so come dire, si spera che sia un unicum, ecco, quello della storia italiana. Vorrei sentire Mario da Chieti, buongiorno Mario. Sì, buongiorno, io volevo solo semplicemente dire questo, rispetto anche a quanto affermato dal dottor Teresa, le immagini dimostrano che i manifestanti, quelli diciamo cattivi, erano tanti, non erano 25, e non è vero che si sono infiltrati uno alla volta. Noi sai che i 25, sa perché, rispondo io per Teresa, le avessi perché evocando i 25 elettori manzoniani, per dire un gruppo ridotto. Comunque, diciamo, non si sono infiltrati uno alla volta, noi abbiamo le scene in cui questi erano a testuggine tutti quanti davanti. Quello che voglio dire è che se i manifestanti pacifici tutti si fermassero a quel punto, allora ci potrebbe essere uno scontro o diciamo un'attenzione più mirata a questi soggetti armati col casco, ma gli altri si dovrebbero fermare. Allora, ma è chiaro, lei dice, Mario, diventano corresponsabili. E infatti, ma guardi che Luca Teresa in questo ha detto, richiama appunto le persone pacifiche a dire non eliminate questa zona grigia, cioè non fateli più entrare, prendetene le distanze. Però Claudio Giardullo, vorrei farle questa domanda, non so se ha visto il video che pubblica Repubblica.it, no. No, ci sono delle immagini in cui si vede chiaramente che ci sono delle strisce, scie di fumogeni che vengono lanciati sulla folla sotto dal Ministero della Giustizia. Cioè ci sono, sembra proprio che dei fumogeni siano stati lanciati dall'ultimo piano del Ministero della Giustizia. Ci sono le scie appunto che dalla finestra partono di fumo sulla folla e dice Repubblica, ma che cos'è? Una cosa inquietante. È vero che ci sono degli esponenti della polizia penitenziaria, ma c'è la possibilità che qualcuno addirittura abbia sparato dei lacrimogeni sulla folla dall'alto? Le pare uno scenario possibile, Giardullo? Allora, tecnicamente è assolutamente sbagliato, come lei può immaginare. I protocolli dicono che i fumogeni, specie nelle aree urbane, devono essere utilizzati solo in casi assolutamente eccezionali e poi tenendo conto anche di condizioni di luogo, ovviamente, insomma. E quindi c'è da approfondire, può darsi che sia stata un'iniziativa di chi ovviamente dal punto di vista dell'ordine pubblico non ha le idee chiare. Cioè ci sono queste 3-4 finestre, tre finestre con scie proprio di fumogeni, lo trovate a pagina 7 di Repubblica, quei lacrimogeni lanciati dal Ministero della Giustizia, poi voglio dire, quindi anche da un'istituzione. Sì, l'approssimazione è un po', e qualche volta il dilettantismo in queste cose, l'ordine pubblico a volte si risolve nel bene o nel male nel giro di pochi minuti, purtroppo. Scelte che si fanno così sul momento. Avere le idee chiare è fondamentale. Luca Telese, comunque, che effetto fa vedere che alcuni ragazzi nel parapiglia, effettivamente ragazzi sedicenni, diciassettenni, sono poi ora a dire ci hanno preso un calcio, ho preso una gomitata, ero qui a manifestare per la scuola. Che ragazzi crescono questi? Che è caduta la linea. Vabbè, ma adesso lo recuperiamo perché sta su un treno. Saluto Gianni da Milano. Allora, Gianni, ci dica perché ci ha chiamato. Salve Milan, guardi, io la farò troppo semplice, però io parto da un presupposto. Allora, queste manifestazioni sono ovviamente organizzate, si sa benissimo cosa può succedere, eccetera, eccetera. Allora, esiste una legge ben chiara che dice che se uno va in motocicletta o in bicicletta, col casco per città non ci può stare, sì. Col bavaglio non ci può stare. Va bene. Allora, i nostri poliziotti, io sto dalla parte dei poliziotti, forse si è capito, non sono in piazza per prendere no, le ma legnate. Questo è ma questo è chiaro, ecco, però Gianni, scusi, le per mantenere un ordine va bene pubblico. Gianni, ma le faccio pubblico? Io le faccio, scusi, le faccio, scusi, io questa domanda, scusi, sì. Scusi, l'ordine pubblico lo si organizza mettendo dei filtri in modo tale che chi si presenta in quel modo in un corteo ci fa una strozzatura, passano, sì, quelli che non sono attrezzati in questa maniera, gli altri vengono fermati e gli sequestra. Va bene, il casco. Gianni, ho capito, ma secondo lei uno che va con un casco e uno che va per lanciare una pietra contro un esponente delle forze dell'ordine, quindi quello è il vero reato più del casco, lanciare appunto una pietra, appunto, e secondo lei si fa il si fa il problema di mettersi o no il casco? Cioè, per me, a me non interessa che si fa il problema perché ho capito, ma certo, ma lei dice che il problema è che c'è una legge che vieta di andare col casco, va bene, ma voglio dire, il reato peggiore dei due non è il casco, il reato peggiore dei due non è il casco, perché uno può dire guardi, sono sceso dal motorino, non me lo sono ancora tolto, il problema maggiore è che poi tirano pietre e cocci di bottiglia. Comunque la ringrazio, ho un minuto per chiudere. Luca Telese, che la domanda era che effetto fa vedere questi giovani, alcuni colpiti, 17enni, che giovani crescono, quelli che vanno a manifestare a scuola e si ritrovano magari con una ginocchiata, un pugno, un calcio, una manganellata in faccia. Guarda, non avremmo fatto questa copertina così netta, cioè da un lato condannare l'infiltraggio e anche l'acquiescenza contro i provocatori e dall'altro condannare le botte, se non avessimo visto con i nostri occhi dei ragazzini che alle volte sono stati veramente trattati molto duramente e che chiaramente non avevano nulla a che fare. Allora il problema è che in un momento così la risposta semplificata non c'è, le risposte sono complesse, cioè devi riuscire a garantire il diritto di manifestare e devi allo stesso tempo riuscire a fare una cortina di isolamento nei confronti, sì, di quei gruppisti che vanno lì solo con l'unico obiettivo, sì, di colpire, tirarsi dietro qualcuno. Certo. Allora fermiamoci qui e vi ringrazio, Luca Telese, direttore di Pubblico e anche conduttore di In Onda il sabato e la domenica sulla 7, e Claudio Giardullo del sindacato generale del SILP CGL. Grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì mattina alle 6:30 puntuali.